Allora, 19.59, proviamo a tornare in diretta su Cronache di Regime con la connessione che è stra andata. Abbiamo avuto dei problemi di connessione, quindi l'intervista con le compagne di Compagni di Torino non l'abbiamo fatta in diretta, ma l'abbiamo registrata e comunque rimarrà sul podcast. Allora, volevamo provare a parlare un po' di carcere anche, un po' di notizie, di news da carcere. Questa è una cosa che proveremo a fare in maniera continuativa. Ma quali notizie volevamo dare? Volevamo dare un po' di notizie che ci paiono abbastanza interessanti. Ad esempio, da inizio anno ci sono state già due tentate evasioni dalle carceri italiane. Una c'è stata proprio il 1° gennaio a Vercelli. Due detenuti si sono calati dalle lenzuola dopo aver segato le sbarre delle celle, e i due quindi sono evasi. Uno purtroppo è stato preso, l'altro invece è ancora ricercato, e 10 giorni dopo c'è stato questo raddoppio, tra virgolette, di evasioni. In tre sono scappati dal carcere di Bellizio, ovvero il carcere di Avellino. Bellizio è una frazione di Avellino. L'11 gennaio quindi sono scappate tre persone, e però due di loro sono stati ripresi. Ancora un ragazzo prova a spiegare le ali della propria libertà dopo essere evaso dal lager di Stato chiamato carcere. E volevamo dare anche un po' di notizie di alcune rivolte che ci sono state da inizio anno all'interno delle carceri italiane. A metà gennaio c'è stata una rivolta nel carcere di Ariano Irpino, dove i detenuti hanno tentato di sfondare il cancello della sezione, il cancello che divide insomma la sezione e il carcere dal gabbiotto dove sono, o dalla rotonda dove sono le guardie. Non sono rientrati in cella e quindi poi dopo si sono barricati. Altre notizie simili dell'altro giorno: c'è stata una rivolta a Taranto, tutta la sezione ha rifiutato di rientrare in cella, alcuni detenuti poi si sono barricati nella cella. A Catania, nel carcere minorile, negli ultimi 10 giorni ci sono stati due episodi di detenuti che hanno appiccato il fuoco all'interno della cella. Da inizio mese ci sono state più o meno 4 situazioni abbastanza complicate all'interno del carcere minorile di Catania, dove sicuramente c'è una tensione alta. A Catanzaro una settimana fa c'è stata una vera e propria rivolta, una sezione è stata presa, molte celle danneggiate, è stata allagata anche la sezione, 3 agenti penitenziari sono stati feriti, diciamo hanno dovuto usare la forza e l'uso di poliziotti e secondini che non erano in servizio per provare a sedare questo tentativo di rivolta. E notizia tra virgolette fresca di questi giorni è della rivolta che c'è stata ancora una volta nel carcere di Santa Maria Capovetere. Per chi non se lo ricordasse, a Santa Maria Capovetere insomma c'è stato un grosso passaggio ad aprile 2020, circa un mese dopo le rivolte che c'erano state a marzo nelle carceri italiane. I secondini si sono ripresi la loro rivincita personale nei confronti dei detenuti, e un paio di giorni fa a causa di un focolaio Covid circa 60 persone all'interno del carcere di Santa Maria Capovetere, da fonti note, quindi fonti dell'amministrazione penitenziaria e sanitaria del carcere, quindi pare che ci sono 60 detenuti con il Covid. Un po' di persone diciamo si erano un po' stufate di questa situazione e di stare all'interno di gabbie, e soprattutto di stare in una situazione del genere dove comunque il Covid è inarginabile. E niente, quindi i detenuti hanno preso la sezione, alcuni si sono barricati in cella, è stata devastata tutta la corsia della sezione, due secondini sono finiti in ospedale, e per provare a riprendere possesso del carcere insomma è dovuta intervenire la polizia penitenziaria in antisommossa. Poi ci sono un paio di aggiornamenti riguardo i processi. ad esempio c'è il processo di Salerno, è partito il processo per 12 detenuti per devastazione e saccheggio, sempre in seguito alle rivolte di marzo del 2020. Per il processo un po' più grande, che ha avuto un po' più di eco mediatico, ovvero quello di Santa Maria Capua Vetere, il procuratore ha chiesto 32 patteggiamenti su 108 tra secondini e persone operanti all'interno del carcere. Quindi 32 per 32 persone è stato richiesto direttamente al procuratore il patteggiamento, perché le pene dovrebbero essere più lievi riguardo i passaggi e le torture che ci sono state in quel maledetto carcere. E poi, a quanto pare, anche questa è una notizia fresca di un paio di giorni massimo, a Modena c'è invece il procuratore, il PM di Modena, pare che abbia richiesto l'inizio di un processo per lesioni e tortura, mi pare, ora mi sfugge, scusate, il reato. Comunque pare che ci sia una richiesta di processo nei confronti dei secondini per lesioni, un'altra tipologia di reato, sempre insomma simile a quello di lesioni. Questa è una novità, perché come sappiamo, sapete, spero, se non lo sapete, era stata in qualche modo archiviata la situazione di Modena, dove insomma durante la rivolta sono morte più di 10 persone in quel carcere. Un'altra notizia sempre riguardante il mondo delle carceri è il fatto che il capo del DAP Basentin si è dimesso. Basentin arrivava in seguito, cioè è stato eletto capo del DAP in seguito alle dimissioni di Petralia. Scusate, si è dimesso Petralia da capo del DAP, che aveva preso il posto di Basentin, e Basentin appunto era stato investito in tutti i modi in quel periodo da critiche e polemiche suscitate, perché appunto era lui a capo del DAP quando ci sono state le rivolte in carcere, e poi quando aveva deciso di liberare solo alcuni detenuti per motivi di salute quando impazzava l'epidemia di Covid. L'ultima notizia che volevamo dare è un resoconto delle morti che ci sono in carcere e dei suicidi. I dati li abbiamo trovati sul dossier del carcere di Ristretti Orizzonti, e all'oggi, da inizio gennaio, si contano 12 suicidi. Ci sono altre 8 morti, di cui 5 da accertare, le altre per malattia, quelle da accertare, quindi bisogna capire se effettivamente sono stati suicidi o se sono stati morti per malattia. E niente, di questi 12 suicidi l'ultimo è stato a Regina Coeli e il penultimo a Monza. Va bene, questo è più o meno, prova a essere un bollettino di news dal carcere che proveremo a fare in maniera costante su Cronache di Regime, in diretta o in podcast. Questo lo capiremo quando risolveremo definitivamente i problemi di connessione. Ora invece andiamo avanti e ci sentiamo un pezzo dei Tiveri Corporation, Lebanese Blonde.